Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ci vorranno ancora giorni per il rimpatrio dall'Egitto del corpo del piccolo Mattia Cossettini, morto a 9 anni il giorno dell'Epifania mentre era in vacanza con mamma e papà a Marsa Alam in Egitto. Mentre si cercano di capire le cause dell'improvviso decesso, le comunità di Tavagnacco e Tricesimo si stringono nel dolore. L'assessore regionale alla salute Riccardi getta acqua sul fuoco della polemica sul piano oncologico regionale. Nessun accorpamento, ha detto, è conferma del ruolo del centro di riferimento oncologico di Aviano. Si complica la questione del terzo mandato per il presidente di regione che la Lega vorrebbe sottoporre al consiglio regionale già nei prossimi mesi. Il senatore forzista Gasparri esclude eccezioni legate alla specialità della regione. Sono in corso a Udine i funerali del nostro collega Giovanni Taormina, spirato lo scorso 2 gennaio. Centinaia di persone in questi giorni hanno reso omaggio alla sua professionalità e al suo calore umano. Serbo e russo ortodossi celebrano oggi il Santo Natale nella chiesa di San Spiridione a Trieste. Si è pregato per la pace. Il conflitto russo-ucraino, è stato detto, ha spaccato non solo i popoli, ma anche le chiese, aggiungendo sofferenza a sofferenza. Ieri sera a Tarcento il fumo del Pignarul Grand si è diretto a sud. Per il vecchio venerando significa che nel 2025 sarà necessario fare economia. La competenza speciale degli speleologi della regione nell'esplorazione delle grotte ha portato un esperto triestino a coadiuvare i soccorsi Ottavia Piano, intrappolata nell'abisso in Lombardia, e tra gli esploratori nostrani la storia di un altro speleologo triestino che scoprì il segreto della grotta del Soffiatoio del Diavolo in Slovenia. Buongiorno, ben ritrovati da Lara Zani e Francesca Vigori in apertura del nostro giornale radio. Il dramma nella località turistica egiziana di Marsa Alam, dove è morto improvvisamente un bimbo di 9 anni di Tavagnacco. Mentre si cercano di capire le cause del decesso e si attende il rimpatrio della salma, due comunità friulane vivono un momento di grande dolore, oltre Tavagnacco anche Tricesimo, dove il piccolo Mattia era nato. Ci vorranno ancora parecchi giorni per capire le cause della morte del piccolo Mattia Cossettini, deceduto a 9 anni la mattina dell'Epifania, mentre era in vacanza con mamma e papà a Marsa Alam. Ma tempistiche lunghe anche per il rimpatrio dall'Egitto. La trafila per il ritorno della salma non è ancora iniziata. L'autopsia di Mattia verrà eseguita in Italia, conferma l'avvocato di famiglia Maria Virginia Maccari. I genitori Alessandra e Marco rientreranno in Friuli il 9 con il volo inizialmente prenotato. Ancora ignote le ragioni del decesso, il piccolo stava benissimo fino a prima dello svenimento e dello stato comatoso incontrato successivamente. Ospedale, per modo di dire, quello di Marsa Alam, quasi più un gazebo, indica la legale. La scuola frequentata dal piccolo Mattia a Tavagnacco ha già attivato un supporto psicologico per i compagni di classe che oggi hanno ricominciato le lezioni. Da qualche anno la famiglia Cossettini si era trasferita a Tricesimo e partecipava alla vita della proloco della frazione di Laipacco, pronto il paese a stringersi intorno alla famiglia al suo rientro dall'Egitto. Giorgio Baiutti, sindaco di Tricesimo. Anche stamattina, attraversando appunto il paese, ho percepito una forte partecipazione da parte della nostra comunità. Ci saranno le associazioni, ci sarà la proloco di Laipacco, ci saranno anche i ragazzi coetanei del piccolo che purtroppo ha perso la vita in condizioni così tragiche. Tricesimo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi ha incontrato questa mattina i vertici del centro di riferimento oncologico di Aviano. Nessun accorpamento, ha detto, e conferma del ruolo dell'istituto. Nessun accorpamento e conferma del ruolo del CRO. In un'ora di riunione a porte chiuse, l'assessore alla salute Riccardo Riccardi ha incontrato i vertici dell'istituto per fare il punto sul discusso piano oncologico regionale. Il mandato ad interim al direttore generale assicura è volto a ottimizzare le attività. L'assessore Riccardi. Il mandato al direttore generale non è un'ipotesi in questo momento di fusione delle due aziende, quindi mantiene l'indipendenza. Ovviamente dobbiamo fare delle ottimizzazioni che consentano di sviluppare percorsi condivisibili e sostenibili sul piano delle dimensioni. Tra i professionisti del CRO l'auspicio di un maggior coinvolgimento per il futuro. Domani invece l'incontro con i medici dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, firmatari della lettera aperta. Ci sono margini per modifiche al piano, ascolteremo tutti, risponde Riccardi, ma il piano è solido. Spesso vedo in qualche lettera più a difesa di qualcuno che a difesa del livello di efficienza e di sicurezza delle cure delle persone. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La questione del terzo mandato divide il centrodestra e con il passare dei giorni sembrano esserci sfumature diverse anche tra Forza Italia Nazionale e dirigenza locale. Sentiamo il servizio. Si complica la questione del terzo mandato per il presidente di regione che la Lega vorrebbe sottoporre al Consiglio già nei prossimi mesi. Il senatore Maurizio Gaspari, responsabile nazionale per gli enti locali di Forza Italia, ribadisce il no espresso 2 giorni fa ed esclude eccezioni che riguardino una regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia. Rispettiamo il dibattito che si svolge sui territori, ma riteniamo che una regola del genere debba valere per tutte le regioni, pur comprendendo l'autonomia di alcuni territori che rispettiamo. La posizione del gruppo dirigente regionale di Forza Italia sul terzo mandato è notoriamente diversa. Personalmente si dice favorevole anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ad esempio, ma la linea dettata da Gasparri cambia il quadro a meno di un atto di disobbedienza da parte della coordinatrice Sandra Savino e dei 3 consiglieri regionali. La contrarietà di Forza Italia rappresenta di fatto una sponda a Fratelli d'Italia che con il ministro Luca Ciriani ha già detto no, chiarendo che il Veneto spetta al partito di Giorgia Meloni. Per la Lega, il presidente Massimiliano Fedriga, la questione va separata dal resto d'Italia perché il Friuli Venezia Giulia, grazie alla sua specialità, può introdurre il terzo mandato con una semplice riforma della legge elettorale. Il tema è proprio questo. Senza il terzo mandato potrebbe saltare in toto la revisione della legge elettorale che molti vorrebbero per varie ragioni, per esempio per eliminare il limite di mandati per i consiglieri regionali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono in corso a Udine, nella chiesa di Santa Maria Assunta, i funerali del nostro collega Giovanni Taormina, mancato nei giorni scorsi all'età di 60 anni. Molti rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della società civile sono presenti alle esequie, dopo giorni in cui si sono susseguite le visite alla Camera Ardente allestita all'ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine. Siciliano d'origine, giornalista da 2000, dopo aver lavorato in RAI, a diverse trasmissioni a carattere nazionale, in radio e televisione, Giovanni era arrivato alla testata giornalistica regionale nel 2018, prendendo servizio prima alla TGR Umbria, poi alla TGR del Friuli Venezia Giulia. Lavorava alla sede di Udine, attento alla cronaca, al racconto dell'attualità, ovunque la professione lo abbia portato. Per Giovanni il giornalismo è sempre stato anche impegno civile per la legalità e contro ogni tipo di mafia. Grande la sua onestà, la sua franchezza, il coraggio, la prontezza di spirito nei rapporti umani. Non comune la sua empatia, la capacità di connettersi immediatamente con ogni persona che incontrava e la sua dedizione alla professione giornalistica che ha amato fino all'ultimo giorno. Per sua volontà al funerale seguirà la cremazione e le sue ceneri saranno disperse in mare. Ora uno sguardo al tempo, il cielo è coperto e piove su gran parte della regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 15 gradi, a Gorizia 11, a Udine 10, a Pordenone 9 gradi. A Tolmezzo 5 gradi, a Piancavallo 3, a Forni di Sopra e Tarvisio 2 gradi, a Sappada 0 gradi. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan meno 1 grado, a Grado 10 gradi, a Lignano 9. Le previsioni, oggi cielo coperto con piogge deboli moderate sulla costa, in genere abbondanti e localmente intense su alta pianura e fascia prealpina. Quota neve inizialmente a 1000 metri, in risalita poi a 1200-1004 sulle zone interne, 1400-1600 sulle prealpi. Possibili nevicate abbondanti ad alta quota su Alpi e Prealpi Giulie e sulla Carnia orientale. Possibili temporali. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, cessazione in serata. Soffia vento moderato da sud, sud-ovest sulla costa e anche in quota. Possibili foschie o nebbie in serata, specie sulla pianura. Da oggi a domenica notte a Trieste rimarrà chiusa al traffico, non ai mezzi pubblici, la Galleria Sandrinelli, che collega Piazza Goldoni a Piazza Sansovino. È un primo passaggio per individuare punto e identità dei lavori necessari a sistemare le condotte d'acqua sotterranee. L'auto della polizia locale parcheggiata in una carreggiata e gli agenti fuori a deviare il traffico delle autobus e mezzi di soccorso invece sono gli unici autorizzati a percorrere la galleria Scipione Sandrinelli sotto la Scala dei Giganti a Trieste, importante collegamento cittadino tra Piazza Goldoni e Piazza Sansovino, chiusa alle macchine per sondare eventuali lavori di manutenzione della rete idrica, poiché le tubature presenti nel sottosuolo, scrive a Cegas APS AMGA che sta effettuando le verifiche, sono ormai vetuste e ammalorate. I tecnici sono già al lavoro. L'ordinanza di divieto d'accesso fatta dal comune parla di chiusura al traffico veicolare per 5 giorni fino alle 24 del 12 gennaio. Sul cartello all'ingresso della galleria si parla di chiusura fino a termine dei lavori. Non c'è il timore che i tempi si dilatino, assicura l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder, poiché non ci sono problemi statici della galleria, ma si tratta solo di lavori di risanamento previsti dal PNRR. E lo conferma anche Giovanni Piccoli, ingegnere a Cegas APS AMGA, che dà i tempi dell'intervento. Questi 5 giorni serviranno a sondare i luoghi dove sarà necessario poi aprire 3 piccoli scavi per procedere al reintubaggio della condotta. Questi scavi verranno fatti i primi di febbraio. La galleria sarà dunque nuovamente chiusa al traffico privato per 2, massimo 3 settimane, garantisce l'azienda, che nell'adiacente piazza Sansovino ha già sostituito gli allacciamenti idrici dei palazzi limitrofi alla piazza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le comunità religiose serbo-ortodossa e russo-ortodossa celebrano oggi il Santo Natale. A Trieste, nella chiesa di San Spiridione, il rito che ha richiamato centinaia di fedeli che hanno pregato per la pace, come ha sottolineato anche il parroco di San Spiridione, padre Raško Radović. Sentiamo. Festeggiamo lo stesso Signore Gesù Cristo, stesso Salvatore, che è venuto a salvare tutti, no? Cattolici ortodossi ed altri, perché Dio è amore, ama tutti senza differenza. La celebrazione del Natale serbo-ortodosso, come quello russo-ortodosso, 13 giorni dopo il Natale cattolico secondo il calendario giuliano, è una pura differenza dogmatica, dunque esteriore, ma la Natività resta un momento di pace e riconciliazione che deve accomunare tutti. Risuona tra le icone dorate e le litanie bimillenarie della Divina Liturgia Natalizia il messaggio del parroco di San Spiridione Taumaturgo, padre Raško Radović, davanti a una folta assemblea di fedeli ortodossi. Non tutti però, perché se i greci già da un secolo celebrano il Natale il 25 dicembre, per altri, come gli ortodossi ucraini, il cambio di data è avvenuto solo recentissimamente sulla scorta della guerra tra Russia e Ucraina, che ha dilaniato e spaccato non solo i popoli ma anche le chiese, aggiungendo, spiega padre Radović, sofferenza a sofferenza. Naturalmente tutti soffriamo per questo, perché sono fratelli di sangue, anche fratelli di fede ortodossa. Ha portato tanti danni di questa guerra, purtroppo. Ecco, Cristo è venuto proprio per portare la pace. Dobbiamo preparare i nostri cuori per poter diffondere nel mondo la pace che ha bisogno di so, in questo momento difficile, come sappiamo noi tutti. Ma in questo momento anche dobbiamo essere sensibili a quelli che scappano dalla guerra. Tra i simboli del Natale serbo, il ramo di quercia benedetto, il Badniak, che viene poi arso nel fuoco tra le preghiere dei fedeli. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Coia di Tarcento è stato acceso ieri sera il Pignarul Grande. Il vecchio venerando ha interpretato la direzione del fumo verso sud, vaticinando che il 2025 sarà un anno di difficoltà economiche. Il vento spinge il fumo verso sud, un segno inequivocabile di un anno difficile. Auspici poco favorevoli, quelli che arrivano da Coia, la frazione di Tarcento, che ospita il padre di tutti i fuochi epifanici, il Pignarul Grant. Ad interpretare i segni che arrivano dal falò, il vecchio venerando Giordano Marsiglio. Andare verso sud non è la cosa migliore, ma pensate che ci sono altre due posizioni peggiori. Il vaticinio conclude una festa popolare che ha richiamato come da tradizione migliaia di persone, coronata alla fine da uno spettacolo di fuochi artificiali e preceduta da un corteo di fiaccole che ha raggiunto la collina partendo dal paese. Il segno di una partecipazione che ha coinvolto, come ogni anno, decine di volontari qui come in tutto il Friuli e in tutto l'Isontino. Un momento di comunità che, anche secondo il venerando, è la parte più importante di questa tradizione, insieme ad un altro valore chiave che Marsiglio sottolinea alle decine di giornalisti presenti. La prima cosa, la prima in assoluto, è il rispetto. Con rispetto voi potete andare dappertutto. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. La scuola italiana di speleologia è diventata un modello in tutto il mondo per la velocità degli interventi di soccorso in grotta. Uno dei più complessi, quello della speleologa Ottavia Piana in Lombardia. A coadiuvare l'operazione un istruttore triestino, ospite questa mattina della nostra trasmissione giornalistica televisiva. Buongiorno Regione. Nella scuola di soccorso speleologico del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino, su 22 istruttori, 4, tra poco 5, provengono dal Friuli Venezia Giulia. Il segno di una competenza speciale nell'esplorazione delle grotte. Uno di loro è Giampaolo Scrigna, che ha coadiuvato la lunga e complessa operazione di soccorso di Ottavia Piana, rimasta intrappolata per giorni nell'abisso Bueno Fonteno in Lombardia. Ci vuole moltissimo training, noi siamo molto preparati, diciamo che il soccorso alpino speleologico lavora molto sulla formazione e sull'addestramento dei tecnici in maniera che il tutto si svolga il più velocemente possibile. In queste operazioni ci sono alcune squadre composte anche di sanitari che raggiungono e stabilizzano il ferito, i disostruttori che rendono possibile l'uscita della barella e delle squadre all'esterno con cui ci si dà il cambio. All'interno delle grotte non c'è nessun tipo di segnale telefonico e l'unico modo che abbiamo per poter comunicare con chi sta all'interno della grotta è stendere un cavo telefonico molto fino, che è anche molto delicato. La speleologia è scoperta ed esplorazione, una passione che avvicina anche molti giovani. Aldo Fedel, presidente della commissione Boegan della Società Alpina delle Giulie. Sia la nostra associazione che le altre associazioni qui a Trieste o anche in Italia organizzano dei corsi di formazione per l'avvicinamento alla speleologia. Non è che dopo un corso che di solito dura 5 uscite o di più, a seconda, però non dà una preparazione sufficiente per essere autonomi come speleologi formati, però avvicina la persona a quella che è l'attività fatta dagli speleologi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E parliamo ancora di speleologia perché sul Carso, alle spalle di Trieste, in Slovenia, poco oltre Sesana, c'è una grotta con una storia di mistero e fascino, il soffiatoio del diavolo. La cavità fu esplorata per la prima volta più di 100 anni fa da un socio del club dei turisti triestini, sodalizio che fu tra l'altro il primo proprietario della grotta gigante. La grotta di Dimnice, o in italiano affumicatoio del diavolo, esplorata per la prima volta nel 1904 nella sua sala da ballo, che oggi si trova in Slovenia, ha ospitato pochi giorni fa l'evento celebrativo dei 140 anni del club dei turisti triestini, con orazioni e tanta musica dal vivo. Perché il club dei turisti triestini, che fu il primo proprietario della grotta gigante e tra i propri soci annoverava per un periodo anche l'esploratore e speleologo triestino Eugenio Boegan, dal 1884 fino alla Prima Guerra Mondiale organizzava escursioni a scoperta del territorio e del suo sottosuolo e gli incontri avevano sempre anche un momento musicale. Un'associazione che, come un fiume carsico, scomparve nella Trieste travolta dall'incalzare della storia. Il presidente Alessandro Sgambatti. 120 anni fa la grotta è stata esplorata per la prima volta dal nostro socio Ivan Andrei Perko. Era conosciuto come l'affumicatoio del diavolo perché a seconda delle condizioni atmosferiche qua si sviluppa molto vapore e quindi era credenza locale che ci fosse il diavolo sotto ad affumicare qualcosa e i contadini avevano anche paura di buttarsi giù, di scendere per il pozzo. Si racconta di storie di qualcuno che è rimasto impigliato e credeva di essere stato ghermito dalle unghie del diavolo e invece ci sono due pozzi e questi fondi 40 metri comunicano sotto e quindi provocano un certo giro d'aria, per cui l'umidità si forma, si condensa, sale, scende, gela anche in grotta, per cui anche oggi abbiamo avuto temperature intorno ai 0 gradi, mentre si sa che le grotte tipicamente in Carso hanno una temperatura di 11-12, adesso col cambio climatico arriviamo a 13 gradi addirittura. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Due start-up innovative friulane, AI4IV di Amaro e ECM Gems di Pagnacco, che aderiscono al progetto Start-up di Confindustria Udine, sono le uniche selezionate in regione dall'Istituto per il Commercio Estero per presentarsi gratuitamente a Padiglione Italia all'Eureka Park, l'area espositiva dedicata alle start-up del CES 2025 Consumer Electronic Show, che si svolgerà dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas, il più grande e più importante evento tech al mondo. AI4IV, startup innovativa con sede all'interno del Parco Tecnologico di Amaro, ha come obiettivo quello di portare sul mercato degli occhi artificiali intelligenti, con i quali per esempio le automobili del futuro o i droni usati in agricoltura o per individuare persone disperse in montagna o nei boschi non solo saranno in grado di registrare immagini, ma anche di vedere cosa c'è attorno a loro. MC Gems è una startup di Pagnacco fondata nel 2021 all'interno dell'Università di Udine. In 3 anni MC Gems ha sviluppato Ips Magic, un software di simulazione elettromagnetica. Mentre i software tradizionali richiedono competenze avanzate e lunghi tempi di calcoli, Ips Magic è pensato per essere intuitivo ed accessibile, permettendo anche a ingegneri meno esperti di ottenere risultati rapidi e precisi. Il nostro giornale radio si chiude qui da Lara Zani e Francesca Vigori, che l'hanno redatto e condotto, Viola Romanese e Mauro Ciccarelli, che hanno garantito la parte tecnica, Samantha Gon, che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione. L'informazione radiofonica regionale torna alle 15, quella televisiva alle 14 con il telegiornale sulla terza rete Rai. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.